Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Vedere una passeggera accanto a me con lo sguardo perduto verso il bocchettone dell'aria condizionata mi fa riflettere sul fatto che ella abbia qualche tormento amoroso. Lo so, la storia d'amore fa parte della fase finale di questo viaggio in treno nel quale mi accompagnate per il corso di un'ora. Ma questa ragazza mi sembra veramente presa da qualcosa che le sfugge, da qualcosa che è lontano, da un rovello che non posso fare a meno di investigare e cercare di sgarbugliare rispetto all'aggrovigliato meccanismo che leggo dietro i suoi spessi occhiali neri. Hai una storia esemplare che può essere un modello per altre donne, questo penso. Sì. Cosa è modello? Una storia felice? Modello, infelice? No, è una storia infelice che però si spera diventi felice, comunque sempre la speranza di molte donne che poi diventi felice. Cioè, la storia infelice perché cosa fa? Ti picchia, ti maltratta? Cosa... No, perché lui ha un'altra fidanzata. Ah, tu sei un rimpiazzo, diciamo. No, io sono la new entry, loro stanno insieme da 16 anni. Allora, tu ti sei infilata in una storia d'amore che, diciamo, condivideva quest'uomo con altra donna, consapevole del fatto che comunque lui era impegnato. Sì, cioè no, io l'ho scoperto dopo. Ah, lui non te l'aveva detto, aveva mentito. All'inizio no, lui si era presentato normalmente, ci siamo conosciuti come, così, degli amici in comune ci hanno presentato. Ma che era quelle poi, presentazioni organizzate, tipo andiamo a una cena, c'è uno che ti vuole conoscere. No, ci siamo conosciuti perché... per una questione di universitaria, lui doveva fare una conferenza, io ero la referente per la conferenza e lui ci ha provato quasi subito, dai andiamo a cena, dai sei stata troppo carina, gentile, facciamo perché questo. Quando un uomo ti invita a cena vuol dire che ci prova? Secondo me sì, quando ti invita da solo sì. Sempre, un invito a cena è un provarci. Non magari subito, però è gettare le basi per, secondo me. Sì. Quindi tu vai già attrezzata sapendo che è l'inizio di una storia, certo. Potrebbe essere? No, vado pronta a schivare i colpi, quindi comunque io ero arrivata pronta. Solo che la cosa che mi ha preso di contropiede è che tutta la serata io non ho fatto altro che ridere con questa persona. Ed è stata una serata molto piacevole, solo che sono scappata alle 10. L'ho salutato, ciao, è stato un piacere, ciao. Ma ti eri data già una situazione limite, nel senso lì ci scappo, comunque vada, almeno ci penso, così è fatto. Esatto, ciao. E lui, figurati, l'hai fatto attizzare come un leprotto e quindi esatto, ti ha cercato. Esatto, lui a quel punto, la mia fuga è stata, diciamo, ciò che vuole ogni cacciatore, no? E quindi sì, è stato ancora peggio. E ti prende alle spalle, esatto. Chiaro, è più esatto. In difesa. Come è avvenuto, diciamo, la seconda ripresina? Un'altra cena? No, lui mi ha sempre, in continuazione da quel giorno, mandato sempre messaggi e chiamate in continuazione. Non mi ha mai lasciato da quel giorno. Non ti ha mollato più? Mai. E questo, diciamo, è sintomo di corteggiamento? Sì, assiduo poi. Comunque io avevo anche altre persone con cui mi sentivo, ma in maniera così molto sporadica, niente di... continuativo. Vabbè, te l'ha fatto capire che gli piacevi, dai, mi sembra strano. Sì, no? Sì. E tu, ma come avviene poi il momento del cedimento programmato? Poi, un'altra cena? Poi sì, ci siamo visti per un'altra cena, perché dovevamo parlare sempre di un altro evento, dove perché organizzo eventi per lavoro. Io non ho mai sentito parlare di lavoro a cena, di solito uno si vede il pomeriggio, la mattina, in ufficio. No. No, perché comunque lui viaggia molto, perché fa l'imprenditore di questi, insomma, di realtà. Però i sistemi, diciamo, di conquista sono quanto mai tradizionali, la cenetta, il messaggino, sì. Non è che abbia inventato nulla di innovativo. Poi si faceva trovare a posto sotto casa mia, così senza dirmi niente, diceva, ma cosa ci fai qua? Ma questo ti piaceva? Io sarei chiamato la polizia se un uomo viene sotto casa. No, no, poi lui è molto, molto di sorpresa e simpatico, non è uno pressante. Ma non hai mai pensato che tu potevi magari rientrare con qualcun altro, trovartelo sotto casa, non era il massimo? No, sì, ci ho pensato, gliel'ho anche detto una volta e lui mi ha detto, vabbè, ma tanto io lo so che tu sei corteggiata, io voglio sbaragliare la concorrenza, quindi... Però guarda, è sintomatico, tu sei una donna, penso... inserita nel mondo del lavoro, una professionista, sì. Stai raccontandomi di un sopruso che un uomo ti ha fatto subire. Un uomo è entrato nella tua vita privata senza il tuo consenso, ti è venuto sotto casa, quindi ha messo il naso nella tua vita privata. Io non vorrei mai vedere una persona sotto casa se non lo desidero, ma io che sono uomo, pensa tu donna trovarti un farlocco sotto casa e lo consideri un gesto di attenzione, ma com'è possibile? Sì, a me queste cose piacciono perché vengo da realtà di uomini molto che poco ti corteggiano, che poco fanno vedere la loro presenza. Ma questo non è corteggiare, è invadere i tuoi spazi privati, scusa. No, per me è un corteggiamento. Mi piacciono le persone che in amore usano la prepotenza. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Qui ti piace essere presa per i capelli, trascinata per terra magari? No, quello no, però mi piace le persone decise che sanno quello che vogliono e... Cioè uno deve prenderti, appoggiarti a un albero, guardarti negli occhi e baciarti con passione. Sì. Sai, di solito se uno fa queste cose si prende uno schiaffo, evidentemente. No. Evidentemente, o si prende una denuncia per molestia sessuale. Vabbè, evidentemente sei delle donne che gli piace che l'uomo comunque deve far sentire gli attributi, ecco. Esatto, decisi, gli uomini decisi. Vabbè, di dove sei te di origine? Siciliana? Siciliana, sì. Ah, vabbè, chiaro, quindi sono solo linguaggi segreti che solo voi capite. Infatti è difficile entrare in questa sorta, uno fa tutto il correttino, il precisino, il gentilino, e magari si vede guardato dall'alto in basso, è così. Vabbè, allora questo virile strappamutande ti è venuto sotto casa e alla fine hai ceduto. Sì. Vabbè, sì. E siete fidanzati adesso, è una storia. Sì. Cioè, te l'ha detto che ti ama, vuole stare con te? Sì. Quindi siete una coppia a tutti gli effetti? Sì. Ma anche ufficialmente uscite con gli amici in coppia? Sì, usciamo con gli amici, però è una cosa recente che è iniziata da poco, è una cosa che è successa da poco, questa cosa di uscire con gli amici. Finora siamo stati molto noi, molto a due, e lui adesso ha fatto il compleanno di recente, e quindi abbiamo da quel momento in poi inaugurato anche le uscite con gli amici. Oh, quindi adesso qual è il problema? Fammi capire, sembra un idillio, cosa c'è di No, il problema è che comunque c'è sempre lo spettro di lei. Ma dove sta questa qua? Perché scusa, allora si lei sta all'estero. Ah, lontana dagli occhi e lontana dal cuore. Lei sta all'estero, lontana dagli occhi e lontana dal cuore, però ha ancora un ascendente su di lui. Sì, ma stando all'estero non è che lui vede anche lei, che si divide fra due donne. No, però lei quando è in Italia si fa sentire, lo cerca di incontrarlo. Ma lui la incontra? È capitato. Ah, quindi diciamo... sono nati dei litigi per questa cosa. Ma te un pochino rode che lui vada a letto anche con la fidanzata oppure per te è indifferente? No, io mi arrabbio, certo. Ma ti arrabbi o è un motivo di rottura totale? È un po' diversa, uno sa. No, mi arrabbio, cioè poi queste, diciamo, litigate sfociano nel io me ne vado e per me finisce tutto. E lui poi recupera, cerca di recuperare, anche se in realtà siamo stati periodi in cui non ci siamo parlati per un mese, perché io mi sentivo offesa. Quindi a tutti gli effetti tu sei l'amante, lui è una donna ufficiale, tu sei l'amante. Ma diciamo che siamo in trattative. Ma questo è, scusa, a tutti gli effetti. Ma le situazioni di fatto non sono mai così precise come le etichette. Quindi, sì, vabbè, secondo me esiste la vita. La donna ufficiale sa della tua esistenza, mettiamola così. Lei sa che c'è qualcun'altra, sì, ma non sa chi sono. Vabbè, vorrei vedere, se no ti viene a aspettarci. Non ti conviene quello. Ma tu hai dato un ultimatum, devi scegliere fra me e lei prima sì, possibile. Sì, l'ho dato. E quanto tempo gli hai dato? In realtà l'ultimatum è già scaduto, la notizia è questa. Quindi sta però... nelle more in questo momento? Sì, in questo momento è nelle more. E quindi che farai adesso? Aspetterò, vedrò. Se questa fidanzata è lontana, se ne viene una volta ogni tanto, ma alla fine che problema ti dà? No, io voglio anche la situazione di diritto, oltre alla situazione di fatto. Ah, lo vuoi sposare? Vuoi che ti sposi, quindi? Io sì, vorrei che ci sposassimo. Ah, ecco, siamo nel vecchio antico aggancio. No, tipo tutto, sì. Ah, sì, tu hai già l'hai detto già ai genitori che c'è questo fidanzato? Che potrebbe... No, perché io sono molto riservata. Miei a casa mia c'è sempre una un po' mentalità. Dici solo chi volete sposare, noi ci presenteremo il giorno del matrimonio. Sì, ma tu a questo poveraccio, che già vedo poverino in ambascia, hai già detto andiamo un giorno a trovare i genitori, ti presento papà e mamma? No, io non sono così, non mi interessano queste cose. No, vabbè, il giorno che dovrei dirglielo, prima poi guarda che io su di te ho un progetto di matrimonio, glielo devi dire. Ma già un po' ne parliamo. Ma non puoi tenere le carte coperte così, scusa, non è leale. No, ma lui pure comunque, cioè anche lui dice delle cose che mi fanno capire che più o meno. Ma da quanto tempo vi frequentate? Un anno. Vabbè, non è mica tantissimo tempo. No, non è tantissimo, cioè proprio un anno tutto, da quando ci conosciamo a allora. Beh, poi un anno con l'amante vale diversamente che un anno da soli, dai. È un valore diverso. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Scusa, ma no. l'altra donna che sta in un paese lontano, anche lei pensa di sposarsi con lui? Ma non lo so questo, io non credo che lei sia interessata al matrimonio. Ma lui che se la tiene a fare, una che sta in un altro paese viene ogni tanto, fammi capire. Il problema è che secondo me ormai si è innescata quella specie di affetto familiare dopo che si sta per tanto tempo, quasi 20 anni insieme. Ah, 20 anni, una storia. Beh, sì. praticamente una moglie, scusa. Praticamente sono stati insieme da quando hanno 14 anni, cioè. Sì, ma tu pensi che lei nel paese lontano sta lì a limarsi le unghie la sera e a mettersi i bigodini? Ma figurati. Secondo me nemmeno, anche io gliel'ho detto a lui. Cioè, che pensa, no? Fammi capire. Sarà venuta qualche curiosità se in tutta la vita ha avuto soltanto questo tuo splendido, virilissimo, meraviglioso, strappamutande amichetto? Cioè, anche lei farà qualcosa? Anche lei, secondo me, anche lei avrà qualcun altro, solo che entrambe non riescono a staccare questo filo. A staccare questo filo, sì. Vabbè, ma arriverà il momento. Ma quali sono, diciamo, gli assi nella tua manica? Io vivo con lui nella stessa città, intanto. Ma non convivete, però? Non convivete? No, non conviviamo. E poi io sono... Abbiamo delle cose in comune proprio a livello anche lavorativo, io e lui. Ah vabbè, questo, cioè, questo però è un ostacolo all'unione. No, invece è un fuoco che ci unisce. Ma guarda, io non vorrei disilluderti. Ci diamo del consiglio, Non vorrei disilluderti, ma quando poi una coppia diventa una coppia crescono delle sottili rivalità che ammazzano quello che è il disinteresse. No, abbiamo ruoli diversi, completamente diversi, però ci completiamo. Sicura che non è un escamotage per tenertelo vicino? Cioè, almeno abbiamo la scusa del lavoro. No, è capitato casualmente. Io ti auguro di portare a felice conclusione questo progetto. Tutto sommato mi sembra che è più un'ipotesi mentale che una realtà, questa donna che vive lontano, che sta insieme ai tempi delle elementari. Anch'io lo penso. Ma ci sono anche delle famiglie in mezzo che sanno che loro stanno insieme. Ah, sì, ecco, sì, a lui è ufficialmente fidanzato con questa. Sì, certo. Anche lei è siciliana? Anche lei è siciliana? Sì. Anche lei è siciliana? Sì. Qua rischiamo che scateniamo una faida in famiglia. Ah, quindi lui con lei però si è compromesso, è andato a salutare i suoceri, hanno già in 20 anni, certo, hanno scelto la chiesa, lei sta facendo il corredo. No, ma non hanno mai parlato di matrimonio loro. E di che parlano alla fine? Questa cosa è un mistero, perché comunque lei non crede nel matrimonio. Sì, ma lei che sta facendo? Lavora in questo paese estero? Sì, lei lavora lì. Con prospettive di restare sempre lì? Lei sì, pensi sì, non lo so. Ma allora scusa, a un certo punto lui deve capire che sta donna se l'è già perduta. Allora, il problema è di lui, non è di lei. Lei che deve fare. Ah no, il problema è chiaro che anche lui è entrambi, ma soprattutto lui. Ma lei gli manderà qualche messaggio ogni tanto? Nella mente di lei dice: me lo tengo un po' buono per fargli pesare meno le corna che gli metto ogni minuto in questo paese, perché così sarà naturalmente. Lo tiene in bagnomaria, in fondo non mi sembra molto interessata, perché se lei fosse interessata non lo lascerebbe da solo, ma per tanto tempo. Certo. Infatti, a lei non gliene importa più un piffero. Secondo me anche a lui gliene importa nulla. Forse le famiglie di mezzo ancora sono un ostacolo. Per lui è una facile maniera per tenerti un pochino a distanza, c'è sempre la fidanzata, è una condizione comoda, no? Certo. Se no deve prendere una decisione. Ma perché non pensi anche a un altro uomo e provi a cambiare? Sì, ci ho provato e sì, però niente, tornavo sempre poi a pensare a lui, a volere lui e quindi basta, ho detto basta. Non c'è stato chiodo sufficiente a fartelo dimenticare? No. Vabbè, senti, sai che ti dico, il mondo è pieno di chiodi, confida e vedrai che uscirai da questa gabbia che secondo me ti tiene imprigionata e non ti darà nessun tipo di speranza e nessun sollievo, a meno che a un certo punto arrivi il messaggio che tanto aspetti: caro, scusa, mi si spezza il cuore, fa male più a me che a te, ma ho trovato un uomo in questo paese sconosciuto, un uomo che veramente mi fa vibrare come tu non mi hai fatto mai vibrare nei tempi dell'asilo, e quindi ti lascio. A quel punto saranno fatti tuoi, vedrai veramente quale sarà la sua intenzione. Buon viaggio. Grazie. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Vi ho appena parlato della passeggera che stava accanto a me e adesso, dal momento che lei è scesa, probabilmente indispettita dal mio insistere sulla sua storia d'amore impossibile, scorgo che il suo posto l'ha preso un'altra donna. Questa ha in mano un pacco di riviste. Sono riviste più o meno tutte dello stesso genere. Quelle belle riviste d'architettura, d'interni, d'arredamento, con case meravigliose, case da sogno, case che nessuno di noi lambirà nemmeno se non con la fantasia. Perché questa donna che viaggia è così interessata a dei luoghi di soggiorno, dei luoghi in cui si sta fermi? Perché questa donna, che probabilmente sta andando in un posto e sta lasciando un altro posto, sogna tanto qualcosa di stabile, qualcosa con quattro mura costruite, immaginate ed arredate a suo gusto? Non posso fare a meno che chiederlo. Immagino che tu passi la giornata a sfogliare riviste d'arredamento. Sì, tutto il giorno proprio, è il mio mestiere. Però le sfogli inutilmente? Più che le sfoglio inutilmente, le sfoglio per lustrarmi gli occhi. Qual è il tuo problema profondo legato all'arredamento, legato all'ambiente? Ma più che il mio problema profondo è il fatto che io vivo in una casa che non è la mia, vivo delle cose che non ho scelto io, che però adesso iniziano, queste cose qui iniziano a pesare, cioè non mi appartengono, sono cose che non mi appartengono. Spiegami la storia, cominciamo dall'inizio. Cioè, tu vivi, perché vivi in una casa che non è la tua? Capita a tutti di vivere in case che non sono le proprie. Nel particolare tuo caso qual è? Beh, il mio caso particolare è che praticamente dopo una lunga conoscenza con un ragazzo mi sono trasferita per svariati chilometri, ho fatto un sacco di chilometri e mi sono trasferita a casa sua avendo trovato lavoro nella zona all'inizio. Cioè tu hai conosciuto un ragazzo, sì. Vi siete piaciuti, vi siete amati, avete deciso di vivere insieme e tu ti sei spostata verso casa sua, questo sì. È la sintesi. Mi sono spostata dentro casa sua. Cioè lui ti ha preso in casa sua, ti sei accasata praticamente. Mi sono accasata. Vabbè. Sì. Hai trovato una casa naturalmente che non era quella che avevi arredato tu, questo è normale, no? All'inizio succede. Certo, assolutamente sì, però mi auguravo col tempo di condividere qualcosa, qualche scelta insieme, insomma. Ma chi aveva scelto l'arredamento di quella casa? Era stato scelto da questa coppia precedente, che era lui con la ex moglie. Ah, quindi dalla ex moglie, no? La coppia precedente. La ex moglie aveva arredato, era il loro nido d'amore. Sì, sì, era casa loro praticamente tutti. C'era il luogo dove hanno consumato lunghe notti, lunghi giorni di passione, d'amore, li sono amati, conosciuti, e dove lui l'ha posseduta in tutti i luoghi, questo tu pensi? Una casa, no, è una casa di vissuta da 10 anni e da 2 persone che comunque hanno vissuto appunto questi 10 anni con le loro cose, con queste, cioè io mi sono praticamente inserita quando lei ha lasciato la casa e mi sono inserita io in questo. Scusa, momento. Ma lei se n'è andata di casa e non si è portata via niente? Praticamente nulla. Quindi è rimasto lì una specie di sacrario, un altarino perenne della presenza di questa donna. Assolutamente. Più che della presenza di questa donna, io vedo anche la presenza di lui, cioè sono cose che avevano scelto insieme, fatto insieme. Io vedo una vita precedente. Sì, ma lui perché non si è ripulito casa? Di solito quando finisce un amore uno vuol cancellare tutti i ricordi di quell'amore. Perché si è tenuto l'altarino dell'ex moglie? Non lo so, perché tra l'altro era una persona ovviamente diversa, completamente diversa da me, era tutta un girasole, un fiorellino, mentre io sono tipo un po' più sprint, un po' più lineare. Sono un cactus, sì. Cioè, è lei che ha accannato lui o lui che ha accannato lei? Perché questo è fondamentale. Ma è entrambi. Non è mai entrambi, c'è sempre qualcuno che prende l'iniziativa. No, è stata lei praticamente. Ecco, l'ha mollato, quindi lui ancora vive nel ricordo e nella nostalgia di questa donna che l'ha mollato. Ma no, non vive nel ricordo e nella nostalgia, perché, scusa. Quello no, però è delle cose, cioè, che lui ha in casa, dice io sono abituato a vederle lì. E beh, ma non si riesce a staccare, scusa, è un amore che finisce, deve essere una tabula rasa, uno non vuol più vedere il letto in cui si è amato con una persona con cui non vuol più stare, no? Probabilmente lui caratterialmente, psicologicamente non la vede così. Quindi lui è ancora legato a questa donna? Non lo so. Sospetterei di sì, però. Da come ne parla, da come sono andate le vicende, da come. Ma gli uomini dicono sempre bugie in questo caso. No, te lo dico da uomo. Guarda, io ho un sospetto, però non ritenermi crudele. Lui tiene immutato questo nido d'amore perché spera sempre che lei torni, quindi vuol far dire che non ha cambiato nulla. Perché se lui veramente ne fosse staccato, ma chiamerebbe un'agenzia di traslochi e porterebbe via tutto, butterebbe tutto nel cassonetto. Ma forse perché non credo che lui la veda come un nido d'amore, lui la vede dove ha vissuto in quel periodo lì. Ma adesso ci vive con te, è un'altra cosa. Assolutamente, infatti io. Ma fammi un esempio di cosa sgradevole che tu non vuoi vedere, non vorresti vedere, fammi un esempio. Madonna. Tante cose, per esempio le tende con i fiorellini in cucina. Che schifo, come a casa dei Simpson, che ci sono le pannocchie. Una cosa così, poi i piatti tutti colorati, tutti diversi, ma colorati che non hanno un senso, cioè tovaglia con il disegno di anche lì con fiorellini, magari rossi, e i piatti gialli, se capisce niente. Sembra la casa di Holly Hobby, una follia. È una cosa così, poi tutte le mensole con cui ci sono tutti i pupazzetti, il folletto dal bosco piuttosto che il ricordo di una vacanza passata, che io dico ma... Insomma, chi sarà sposato con Biancaneve e Sette Nani? Quanto fa? Sì. Insomma, i piatti li puoi rompere, fa finta che li rompi tutti, li puoi spaccare. Intanto mi cade qualcosa dalle mani mentre lavo, caspita, è caduto. Beh, sono tanti, che è un servizio da 12? Ce n'erano un pochino, si sono un po'. Beh, facciamo conto che i piatti li puoi spaccare. Le tendine non le puoi, scusa, buttaci una secchiata di qualcosa sopra e di che sono sporcate, cambiale. Anche tu imponiti un po' le tendine almeno. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Infatti io adesso sto piano piano. Ma poi dimmi un'altra cosa, i mobili come sono? Beh, i mobili sono carini, al di là che questa persona ha un gusto molto country, come abbiamo capito. Beh, sì. Mobili scuri, queste cose qui, però sono accettabili. Vabbè, i mobili potrebbero quasi rimanere, diciamo. Sì, i mobili assolutamente possono. Ma poi anche pupazzetti, rimanere, almeno i pupazzetti. Almeno quelli non ne posso più vedere. Che pupazzetti sono? Sono ricordi che loro hanno acquistato durante, non so, una vacanza, piuttosto che anche i magneti. Io non sopporto i magneti. I magneti sul frigorifero? Pure sul forno, veramente non posso più vederli. Ma scusa, ma tu quanto pensi che questo uomo ti ami? Perché tu un giorno potresti prendere uno scatolone e mettere tutto dentro, sigillare con lo scotch, ci scrivi ex e dici guarda, tientili, ma metti da un'altra, non li voglio più vedere, decidi. Ma gliel'ho detto. Ma no, detto che... devi farlo, non detto. Sì, hai ragione, perché hai detto così, anzi gli ho detto cos'è successo, che è successo che io ho cercato di portare, anche io avevo una vita precedente con le mie di cose. E le tue cose cosa sono? Fammi capire. Beh, le mie cose, per esempio, io avevo il violino. Quello violino ci può stare, no? Carino, sì, sì, infatti è anche bello da vedere, ma un po' avevo quasi niente, perché a parte i vestiti così mi sono portata poche cose e mi sono anche pure sentita dire: ma tu allora lo fai apposta, vedi che a casa non c'è posto, non si può stare. Allora io ho preso quelle due cose che mi avanzavano e le ho portate. Io sono molto cinico in questo, e probabilmente all'esterno si vede con molta più chiarezza le cose altrui e non si vedono le proprie. Io penso che quest'uomo veramente non ti ami, scusa se te lo dico, ma penso che, o perlomeno penso che sia talmente ancora legato da un ricordo, ma un ricordo funereo, necrofilo per questa ex donna, e non vuol toccare nulla, lui non vuole rimettere in discussione nulla del suo passato. Se ti impedisce portare un violino, che è un oggetto che porta allegria, uscita dal mondo, leggerezza, e si tiene questa sorta di rassegna di tombale, di zombie del suo passato, con i pupazzetti dei sette nani e i magneti con la fruttina di plastica attaccata al forno e quelle orrende tovagliette con i fiorellini e i piatti colorati, questa sorta di orribile kitsch, sembra la casa di un vecchio, sembra quelle case quando muore un vecchio, trovi queste case strabordanti di bomboniere. Ma quanti anni ha quest'uomo? Beh, è giovane, ha 35 anni. 35 anni? Sì, 45 anni. Ah, 45 anni. 45. Ma andiamo avanti nei particolari. Il bagno com'è? No, il bagno è carino, anche lì è arredato tutto con... Cioè, c'è il copri tavoletta di tazza di peluche? No, quello no. Stava bene, fortunatamente. Questi livelli. La biancheria del bagno com'è? Asciugamani, salvietto? Questo... No, quelle le ho portate io. Quelle almeno... almeno gli asciugamani non ci sono. Quelli. Sì, sì, quelli abbiamo... Le lenzuola? Sì. Lenzuola... prima lui, cioè io ho sempre dormito con il piumone, il copripiumone eccetera, è molto molto stile europeo. E quelle di casa com'erano invece? Tutto nuovo, ecco, per quello. Allora, lenzuola elevate. Sì, non c'erano. La lenzuolina di flanella con i fiorellini sicuramente. L'ho vista girare da parte, ma mi sa che è finita in discarica. E com'erano? Com'era? Di flanella con i fiorellini? Orrende, vecchio lenzuolo. Vediamo un po', dammi altri segnali. Io, per esempio, ho il copripiumone di raso, ho queste cose qui. Nudi dentro col copripiumone di raso. Assolutamente. Lei metteva le camicette da notte con i fiorellini, pigiamini di... Non lo so. Pigiamini di pile, sicuramente rosa. Penso proprio di sì. Certo, lo so, ma è così. Dimmi altre cose sgradevoli che ci sono per casa. Se tu potessi avere un lanciafiamme, cosa bruceresti? Mettiamola così. Ma al dire il vero, abbastanza condiscendente, ti dico cosa brucerei, l'ho già detto, queste tendine, è tutta roba che poi tu in una mattina di coraggio prendi una scatola e butti nella spazzatura, è risolto, poi vedi che succede. O se no le metti in uno scatolone, le sigilli, eccole, non le voglio più vedere, deciditi. Sì, forse dovrei fare proprio una cosa del genere. Sì, ma devi farlo, lui non ha il coraggio, sì, ma non lo farà mai. Lui è lì in eterna attesa della risurrezione di questa qua. Ma lei che fine ha fatto? Dove è finita? Beh, lei si è rifatta una vita, ha fatto un'altra vita. C'è un altro uomo che se la sopporta? Sì, anzi, quello è stato il motivo per cui ha lasciato. Quindi tu capisci che quest'uomo dentro c'ha una ferita incolmabile, è stato lasciato, accannato per un altro uomo. Lui sta lì, sognerà che improvvisamente suona la porta e rientra lei con i suoi vestitini country, con le sue camicette. Vabbè, potrebbe, può anche farlo, vado fuori io. Vabbè, senti, se ci tieni proprio tanto, solluccherati un pochino con sto metto, ma secondo me io farei un atto decisivo, prenderei lo scatolone e leverei tutto, vedi che succede. Se si arrabbia e ti caccia di casa, ci avrei solo guadagnato. Se capisce, lo svegli da questo suo sogno, la bella addormentata finalmente si sveglia e ritorna alla vita normale. Assolutamente, quindi tu hai bisogno di uno scacciafantasmi. Quella è una casa ancora invasa da un fantasma di questa sorta di damigella del passato, e finché non scacci il fantasma non c'era spazio per te. Ti ringrazio perché mi hai aperto un mondo stamattina. Io sono specializzato in aprire mondi e distruggere le esistenze altrui. Ciao, buon viaggio. Ciao. Il treno va. Ed ecco la terza donna del mio viaggio. Sì, questo è un viaggio costellato di presenze femminili, così ancora una volta do credito e sostanza a quella che è l'accusa più consistente che mi viene fatta da anni, di viaggiare in treno alla ricerca di storie. Ma di storie, l'unica storia che rappresenta il mio viaggio è la donna che da anni mi aspetta alla stazione d'arrivo, che ancora non è per me arrivata. Il giorno che arriverò alla stazione finale, finirà il programma, finirà il mio racconto, probabilmente finirà il mio viaggiare. E questa terza donna mi scrive, come al solito, una sconsolata lettera in cui mi pone un rovello amoroso che io cercherò per quanto possibile di districare o semplicemente di spianare rispetto alla complessità che mi viene posta. Caro Gianluca, non so perché ho deciso di scrivere proprio a te quel che mi è successo nell'ultimo mese, perché poi in realtà non è successo ancora niente se non nella mia immaginazione, ma appunto qui sta la questione che voglio condividere con te. E un po' ci rido, un po' mi ci arrovello, ma spesso è un pensiero che mi domina. Ho 30 anni e un lavoro come tanti che non ti sto qui a descrivere. Sentimentalmente ho avuto una sola storia duratura, l'ultima, finita 3 mesi fa, e da cui in qualche modo mi sto liberando con fatica. In questo periodo avrei potuto facilmente ricorrere al classico chiodo schiacciachiodo, ma ho preferito evitare per il semplice fatto che non ne ho tanta voglia. E così ho rifiutato corteggiamenti vari, consapevole, lo ammetto, di avere delle buone carte da giocare in termini di femminilità. Ho declinato inviti a cena di colleghi, la proposta di un aperitivo del personal trainer, fingo di non cogliere gli sguardi maliziosi di qualche amico. Insomma, niente, non mi va proprio, fino a quando il destino si è divertito a farmi uno scherzo, o almeno così mi appare, e cioè questo. Vado tutti i giorni a lavorare in uno studio e all'ora di pranzo facciamo la pausa per mangiare. C'è chi va al bar, chi in trattoria e chi come me al supermercato a comprare cose un po' più salutari. 3 settimane fa, mentre ero in coda alla cassa, il mio sguardo finisce sulle mani del cassiere. Un ragazzone bello in carne, diciamo pure grassottello, ma non con la pancia. È tutto grosso. I capelli molto corti, gli occhiali da vista tondi e uno sguardo che mi ha colpito per la sua ingenua sincerità. Pago, metto le cose nella mia busta e me ne vado. Il giorno dopo di nuovo lo riguardo e realizzo contro ogni mia lucida aspettativa che quell'uomo mi piace, mi attira, non so perché. La prima cosa che ho pensato è che è l'opposto del mio ex, almeno nell'aspetto. Ma poi penso che non ha davvero niente in comune con tutti quelli con cui sono stata a letto. Non mi sono mai piaciuti gli uomini grossi e tantomeno grassi, eppure questo mi piace. Beh, in questa premessa non trovo nulla da aggiungere se non che stai cambiando genere. Passando gli anni uno si accorge che i gusti mutano, che vengono allergie per cose che mai lo avrebbe immaginato. Mi sono diventato improvvisamente allergico per la polvere, ho sempre vissuto piacevolmente in ambienti polverosi. Oggi non sopporto più se sento soltanto la presenza di pulviscolo, ecco come adesso. Mi va via la voce, mi metto a tossire, soltanto ad evocarla, soltanto a immaginarla. Beh, questa ragazza che probabilmente nella prima fase della sua vita ha avuto la predilezione per i corpi asciutti, ben torniti, palestrati e muscolosi, comincia a provare una sorta di languore e tenerezza e desiderio sopito, ma che comincia a risvegliarsi come un serpente dopo il letargo, per le carni pingue, per le forme abbondanti, per l'uomo di panza che, come si sa, sotto la panza nasconde la sostanza. Comincio a pensarci spesso, al punto che quando ritorno a fare la spesa lì, ormai arrossisco come una ragazzina al primo innamoramento. La mia collega mi prende in giro. Forse, messi un po' vicino, sembriamo la bella e la bestia. Io in tailleur o in abiti da ufficio, sempre un po' di fretta, e lui lì, che giace come toro seduto pacioso, con la sua casacca colorata. Provo a immaginare la sua vita al di fuori di quella cassa e non riesco più di tanto a visualizzarla. Non porta la fede, non so altro. Ora vorrei sapere se nel frattempo si è accorto del mio interesse per lui. Non lo so, sicuramente mi ha notata e dopo la quarta volta che esitante gli porgevo il pacco di cracker mi ha sorriso, ma forse penserà che sono un po' matta? Inizialmente mi sono detta, cara mia, qui il tuo inconscio ti sta giocando uno scherzo, vedrai che domani già riderai di questa tua fantasia. E invece sono passate 3 settimane e questo orso occhialuto mi piace sempre di più. Mi sono ripromessa di non andare più al supermercato se non per parlargli esplicitamente e invitarlo a vederci da qualche parte, ma mi imbarazza terribilmente farlo davanti agli altri in fila. Che consigli mi dai? Ho paura di apparire goffa e fuori luogo, o magari anche lui sta aspettando la prima mossa. E se anche nell'ipotesi migliore riuscissi a vederlo fuori dal supermercato, avremo qualcosa da dirci? Allora, Devo semplicemente cambiare supermercato? Ti sei attizzata e hai coltivato e fatto crescere il tuo attizzamento lungo tante interminabili file di fronte alla cassa per questo ragazzone nel supermercato, che probabilmente ricambia le tue timide e accennate attenzioni con entusiasmo, ma come le ricambia con qualunque altra cliente del suo supermercato. Ma fa parte del mestiere. Dal più arcaico venditore di cibare, dall'alimentarista, dal pizzicagno, dal macellaio che ostenta sul bancone i quarti di bue, le salamelle, le file di salsicce, le caciotte, i provoloni, facendo esplicite allusioni alle signore dall'altra parte del banco e doppi sensi impronunciabili a questo microfono, semplicemente per creare quel clima affabile che farà sì che quella cliente torni, lui ti sorride come sorride a tutte le signore con il carrello in mano davanti a quella cassa. Non credo che abbia visto in te qualcosa di diverso rispetto alla signora con il carrellino che se lo porta da casa, da quella che ha la borsetta di plastica per risparmiare il sacchetto di carta, da quella che domanda quando è alla cassa se quel prodotto è proprio quello che vuole lei e ti chiede di cambiarlo, di scambiarlo, o si rende conto improvvisamente che non ha abbastanza soldi nel borsellino e qualcosa si lascia lì sulla cassa e te differenza non ce n'è. Cosa vuoi fare? Vuoi invitarlo? Ma ti sembra possibile che una signora alla cassa, alla fila del supermercato, lancia occhieggiamenti pregni di significato al garzone del supermercato? Ma cosa mai penserebbe di te la gente? E se proprio non te ne importa nulla di quello che pensa la gente, cosa fai poi? Gli togli il grembiule e te lo porti a casa? Affitti un albergo e te lo porti nell'albergo? Gli togli di dosso quella sorta di retrogusto di caciotta e di pesce surgelato e te lo fai, ebra di piacere e di sensi appagati? Ma lascia perdere, cambia supermercato, da un'altra parte. È un capriccio senza speranza, perché è un capriccio non motivato di qualcosa che valga veramente la pena di godersi. Probabilmente hai soltanto bisogno di un uomo diverso da quelli che hai frequentato. Ti sei stancato dello standard di cui ti sei sempre appagata. Vuoi semplicemente qualcosa di nuovo, ma non credo, senza nessuna forma di disprezzo, di discriminazione per i signori che stanno alla cassa dei supermercati, che questo ti cambierebbe la vita. O forse, ti do anche un'alternativa, fai qualcosa di totalmente folle, qualcosa che non rientra nei tuoi schemi, è qualcosa che mai faresti nella vita. Datti quei famosi 10 minuti di cose che sono totalmente impensabili rispetto a quello che è lo standard delle tue giornate e vedi che succede. Ma secondo me non succederà niente di particolarmente sconvolgente. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale. Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.